mattina dentro, sono arrivate più di 7 camionette, ci hanno messo un bel po' ad aprire le porte, non sono stati capaci di aprirle. Adesso eravamo tutti sul tetto, 12 persone le hanno portate giù, che erano nella prima parte del tetto. Adesso siamo rimaste in 8, che siamo proprio sul sovrattetto, non so neanche come dirlo. Sono arrivati anche i pompieri, hanno messo un materassone sotto, ma non sanno bene come farci scendere. È una palazzina di 4 piani, appartenente alla provincia. C'è un po' di gente fuori, un presidio di solidarietà e direi che... Voi siete ancora lì, insomma, che intenzioni ci sono? Noi siamo qua, noi restiamo qua e non ce ne andiamo. Finché si può si resta, fin quando poi si portano giù, ci porteranno giù. Però restiamo qua e voilà. Va bene, ormai praticamente ormai ci stiamo quasi abituando agli sgomberi così rapidi e veloci qui, insomma, a Roma sta accadendo davvero molto spesso. Senti, facciamo così, che magari ci aggiorni sulla situazione da qui a breve, magari tra un'oretta, e ci risentiamo, va bene? Ok. A dopo. Ciao. Ciao. Allora,